Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che grazia, misericordia e pace vi siano moltiplicate da Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Anche oggi concentreremo le nostre riflessioni sulla beata persona del nostro Signore Gesù Cristo. Oggi prenderemo in esame una benedizione che scaturisce dalla persona di Cristo Gesù, benedizione troppe volte trascurata, e cioè che Egli è venuto per rivelarci il Padre. Per comprendere le riflessioni di oggi è necessario fare un breve ripasso di ciò che abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo preso atto che la Scrittura attribuisce alla divinità di Israele e dei cristiani tre nomi: Adonai, Elohim, Yahweh. Abbiamo pure constatato che questi tre nomi non sono sinonimi per indicare la stessa personalità divina. Perciò, mentre il termine Elohim e il termine Adonai sono nomi comuni o generici, il tetagramma che noi leggiamo Yahweh è il vero nome proprio della divinità di Israele e dei cristiani. Abbiamo inoltre osservato che Yahweh è il nome che il Creatore si è dato e che ha rivelato per la prima volta a Mosè. Perciò i santi dell'Antico Testamento non avevano una fede vaga in un Elohim, cioè in un Dio vago, ma in Yahweh. Le conclusioni alle quali siamo arrivati sono che gli israeliti, prima della diaspora, credevano in una divinità espressa al plurale e che l'espressione di questa pluralità fosse appunto in Yahweh. In seguito abbiamo considerato che Yahweh ha caratteristiche antropomorfiche e antropopatiche e che si è rivelato all'angelo dell'Eterno quale immagine sostanziale di Elohim, cioè la persona nella pluralità dell'Elohim alla quale l'essere umano può accedere. Per questo motivo abbiamo concluso le nostre riflessioni in merito all'Antico Testamento dicendo che l'Antico Testamento è l'annuncio o l'Evangelo dell'opera e del messaggio di Yahweh. Nel leggere i Vangeli abbiamo notato che Giovanni il Battista identifica in Gesù Yahweh e che lo stesso Gesù afferma di essere la divinità dell'Antico Testamento in molti modi, uno dei quali con l'espressione «Io sono». Abbiamo inoltre dedicato 4 trasmissioni per far comprendere che se Gesù veniva chiamato Signore al tempo dei primi cristiani, essi non gli attribuivano un titolo onorifico, ma lo disegnavano quale divinità dell'Antico Testamento. Infine, abbiamo preso atto che il Nuovo Testamento conferma la pluralità della divinità di Israele e dei cristiani, confessando un Dio unico in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che il messaggio del Vangelo ha al suo centro la rivelazione della persona del nostro Signore Gesù Cristo, la sua divinità, la sua concezione miracolosa nel seno della Vergine, la sua nascita alla somiglianza di uomini, la sua morte espiatoria, sostitutoria a causa dei peccati degli uomini, la sua resurrezione che fa dei credenti in Lui dei giusti davanti a Dio, la sua ascensione per sedere alla destra del Padre della Maestà dei Cieli, la sua assistenza ai credenti che sono per la fede salvati, santificati e in attesa di essere glorificati, e il suo ritorno. Questi sono solo alcuni aspetti delle benedizioni che scaturiscono dalla persona del nostro Signore Gesù Cristo. Il fatto che Egli ci abbia rivelato il Padre e che in seno alla divinità sussistono tre persone è una rivelazione senza pari. Le riflessioni che faremo in queste ultime trasmissioni costituiscono le inevitabili conclusioni derivanti da ciò che abbiamo considerato fino ad ora. Forse qualcuno avrà delle perplessità ad accettarle, ma non ne vedo altre possibili, considerando se ciò che è stato esposto fin qui è corrispondente alla verità. Se le conclusioni sembrano assurde, sono disposto, come sempre, a mettere in discussione queste riflessioni finali e a farne oggetto di confronto con chi la vedesse diversamente. La coscienza che esista un supremo, un essere infinito, è sempre stata propria di qualsiasi cultura e nazione. Nulla di strano, dunque, che anche il popolo di Israele avesse coscienza di un creatore, di un Altissimo. Ma che la divinità sia relazione filiale, paterna e spirante è una rivelazione esclusiva di Gesù Cristo. Per comprendere ciò occorre per un attimo dimenticare 2000 anni di storia e ritornare al tempo di Gesù Cristo. Fino a quel momento il popolo di Israele aveva creduto e credeva in un unico Dio, chiamato Yahweh. Il profeta Isaia a riguardo è categorico. Ascoltiamo. I miei testimoni siete voi, dice l'Eterno, insieme al servo che ho scelto, affinché voi mi conosciate e crediate in me e comprendiate che sono io. Prima di me nessun Dio fu formato e dopo di me non ve ne sarà alcuno. Io sono l'Eterno e all'infuori di me non c'è Salvatore. È in quest'ottica dottrinale che dobbiamo ambientare la venuta di Gesù e le sue parole. Quando Gesù nacque, Israele aveva una fede monoteista, corrispondente ad un monoteismo assoluto, come quello di oggi. In un contesto del genere viene rivelata al popolo di Dio la pluralità della Deità. Pluralità, tra l'altro, preannunciata velatamente fin dalle prime pagine della Scrittura. Gesù, all'età di 12 anni, dichiara per la prima volta di avere una relazione con la pluripersonalità in Dio. Ascoltiamo la lettura nel Vangelo di Luca, al capitolo 2. E avvenne che, 3 giorni dopo, lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, intento ad ascoltarli e a far loro domande. E tutti quelli che lo udivano stupivano della sua intelligenza e delle sue risposte. E quando essi lo videro, rimasero stupiti, e sua madre gli disse, «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo». Ma egli disse loro, «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le parole che aveva detto loro. Maria rimprovera Gesù per aver provocato ansia a lei stessa e a suo padre nel doverlo cercare. Ma Gesù, facendo orecchie da mercante, risponde a Maria riferendole di avere un altro padre e al quale doveva ubbidire. Non a caso, l'evangelista Luca riporta che i suoi genitori non capirono la risposta di Gesù. La seconda volta, in ordine cronologico, nella quale si incontra il divino, che rivela una pluralità in sé rapportandosi a Gesù, è al momento del battesimo di Gesù. Ascoltiamo la lettura nel Vangelo di Matteo. E Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua. Ed ecco, i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse, «Questi è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto». Dobbiamo pensare all'imbarazzo di coloro che erano presenti. Il divino afferma di avere un figlio. Se consideriamo esplicitamente il testo biblico, la voce del divino è udibile 3 volte soltanto, durante il battesimo, sul monte della Trasfigurazione e quando Gesù entra a Gerusalemme montato su di un asinello. Subito si pensa che la voce sia quella della persona del Padre, ma non abbiamo nessun supporto biblico per affermare ciò. Perfino Pietro, nella sua seconda lettera, si riferisce alla voce per 2 volte, senza identificarla con la persona del Padre. Anche Giovanni il Battista al quale fu rivolto la parola di Dio, definì il mandante colui, senza specificarne il nome, come leggiamo nel suo Evangelo al capitolo 1. Io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse. Fino al battesimo di Gesù, nessuno pensava che in seno alla divinità vi fosse una pluralità di persone, che una fosse il Padre, una il Figlio e l'altra lo Spirito Santo. La voce, che ha definito Gesù mio Figlio, può essere identificata, oltre con la persona del Padre, anche con la persona dello Spirito Santo, o con entrambi. Nel libro dell'Apocalisse, infatti, la voce è attribuita allo Spirito Santo. Questo ci porta a comprendere che la parola Padre, riferita alla divinità, non sia da attribuire sempre alla prima persona della Trinità. Con le sue affermazioni, Gesù non ci concede un'alternativa. Solo tramite Gesù Cristo apprendiamo l'esistenza del Padre in seno alla Deità, e la conoscenza di un Padre è possibile solo tramite il Figlio. Ascoltiamo la lettura nel Vangelo di Matteo al capitolo 11 e al versetto 27. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Gesù dunque afferma in modo categorico che l'uomo, per natura, non può accedere alle relazioni trinitarie. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio. La divinità quindi è inaccessibile. Vi è una sola possibilità affinché l'uomo possa conoscere il Padre, che Gesù lo riveli. Il Padre quindi è conoscibile solo attraverso Gesù Cristo. Se questa verità non ci fosse già familiare, ci colpirebbe per la sua straordinarietà. Vi sono affermazioni dell'Evangelista Giovanni che sono molto categoriche. Leggiamo le prime due nel suo Evangelo. Non che alcuno abbia visto il Padre se non colui che è da Dio. Questi ha visto il Padre. E ancora? Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere. L'altra affermazione la troviamo nella sua prima lettera. Ascoltiamo. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è perfetto in noi. Dunque, il Padre non solo non è conoscibile se non tramite Gesù, ma nessuno lo ha mai visto. Se prestiamo attenzione all'affermazione di Giovanni, secondo la quale nessuno ha mai visto Dio, perché Dio è Spirito, questa per l'autore è una vera e propria provocazione. Infatti è vero che in 19 secoli i commentatori e i filosofi greci hanno fatto di questa verità quasi un dogma, ma la grande sorpresa che gli stessi giudei avrebbero è che il Tanakh, gli ebrei chiamano così la Bibbia, afferma proprio il contrario. Esseri umani, nell'Antico Testamento, hanno visto Yahweh, la divinità di Israele, come troviamo scritto nel libro dell'Esodo, al capitolo 24. Ascoltiamo. Poi Mosè ed Aronne, Nadab e Abiù e 70 degli anziani di Israele salirono e videro il Dio di Israele. Sotto i suoi piedi c'era come un pavimento lavorato di zaffiro, della chiarezza del cielo stesso. Ma egli non stese la sua mano contro i capi dei figli di Israele, ed essi videro Dio, e mangiarono e bevvero. Dobbiamo anche citare nella Torah anche l'esperienza di Giacobbe a Betel e a Penuel, e quella di Manoa che videro Dio. Nell'Antico Testamento Mosè è descritto come colui che parlava faccia a faccia con Yahweh, come un uomo parla col proprio amico. Testimonianza questa data da Yahweh stesso ad Aronne e Maria. Infatti, Ecco cosa disse l'Eterno di Mosè. Con lui io parlo faccia a faccia, facendomi vedere, e non con detti oscuri. Ed egli contempla la sembianza dell'Eterno. L'affermazione di Giovanni sta quindi a significare che nessuno ha visto Dio nella sua pluralità, cioè Elohim, ma Yahvé Dio, cioè Cristo, è stato visto e anche toccato dai santi dell'Antico Testamento. Dunque, non era la prima persona della Trinità ad essere conosciuta nell'Antico Testamento, ma Cristo che rivelava il Padre. Termino qui, cari ascoltatori, le mie riflessioni per riprenderle nella prossima trasmissione. Ciao a tutti. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, poiché la promessa di Dio è che chi lo cerca verrà retribuito da Lui, sono convinto che il vostro impegno nell'ascoltare la Sua parola venga e verrà ricompensato abbondantemente. Noi siamo abituati a pensare alle benedizioni in cose materiali, ma il solo fatto che abbiamo la grazia di conoscere Dio e i Suoi pensieri è un dono inestimabile, con una valenza eterna. Continuiamo oggi le nostre riflessioni in merito alla persona di Gesù Cristo, che ci fa conoscere la persona del Padre. Abbiamo detto la volta scorsa che se per un attimo fossimo in grado di dimenticare 2000 anni di storia e ritornare al tempo di Gesù Cristo, comprenderemmo che solo tramite Gesù Cristo apprendiamo l'esistenza del Padre in seno alla Deità. Gesù lo ha detto espressamente. Ascoltiamo. Ogni cosa gli è stata data in mano dal Padre suo, e che nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Perciò l'uomo, per natura, non può accedere alle relazioni trinitarie. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio. La divinità dei cristiani è dunque inaccessibile. Vi è però una sola possibilità affinché l'uomo possa conoscere il Padre, che Gesù lo riveli. Il Padre quindi è conoscibile solo attraverso Gesù Cristo. Se questa verità non ci fosse già familiare, ci colpirebbe per la sua straordinarietà. Le affermazioni di Gesù e degli Apostoli vogliono far intendere che Yahvé, il Dio dell'Antico Testamento, abbia un Padre ed è persona di una Deità pluripersonale che non può essere né vista né conosciuta. Solo attraverso il Figlio si conosce l'esistenza del Padre e si può avere relazioni con Lui. Gesù lo disse chiaramente. Ascoltiamo. Il Padre che mi ha mandato, egli stesso ha reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai udita, il suo volto non l'avete mai visto. La sua parola non dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Per conoscere il Padre, per udire la sua voce, occorre credere in Gesù. Non solo. Gesù stesso disse a Filippo che vedere lui equivaleva a vedere il Padre. Il Padre non era dunque conoscibile prima di Cristo. Questo fatto ribalta completamente l'opinione comune che vede nell'Antico Testamento la rivelazione della persona del Padre e nel Nuovo quella del Figlio. Questa interpretazione ha dato adito a tanti equivoci e ad errori dottrinali. A questo punto si impone una domanda: in che Dio credono coloro che non accettano Gesù come l'unico tramite per accedere alla Deità? La risposta di Lutero è alquanto perspicace. Chi va a Dio senza Cristo incontra il diavolo. A confondere il credente, impedendogli di comprendere che il Dio dell'Antico Testamento non è la persona del Padre, sono le scritture degli Ebrei, che presentano Yahvé come Padre. Questo aspetto avviene solo in relazione al rapporto creatore-creatura e non con riguardo alle relazioni interne alla divinità di Israele, cioè dell'Elohim. Ascoltiamo ora la lettura di alcuni brani. Il primo lo troviamo nel primo libro delle Cronache. Così Davide benedisse l'Eterno davanti a tutta l'assemblea e disse: «Benedetto sei tu, o Eterno Dio di Israele, nostro Padre per tutta l'eternità». Il secondo lo troviamo nel libro del profeta Malachia. «Non abbiamo forse tutti un solo Padre? Non ci ha creati uno stesso Dio? Perché dunque siamo perfidi l'uno verso l'altro, così che profaniamo il patto dei nostri padri?» Il terzo brano lo troviamo nel profeta Isaia. «Poiché tu sei nostro padre, anche se Abramo non ci conosceva e Israele ci ignora, tu, o Eterno, sei nostro padre, nostro Redentore, da sempre è il tuo nome». E infine, ancora nel libro di Isaia, al capitolo 64. «Tuttavia, o Eterno, tu sei nostro Padre, noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi, noi tutti siamo opera delle tue mani». È fuor di dubbio che il Redentore, il Creatore, sia Gesù Cristo. Se non abbiamo presente questo aspetto, arriveremo a conclusioni errate. Essendo Gesù Cristo partecipe della stessa natura del Padre, essendo la natura divina paterna, Yahweh, cioè Cristo, è anche Padre in relazione alla creatura. Infatti, troviamo scritto nella lettera agli Efesini, vi è un Dio unico e Padre di tutti. In effetti, Gesù rispose a Filippo che voleva vedere il Padre. Chi ha visto me, ha visto il Padre. In effetti, Cristo Gesù, essendo Dio, è anche Padre. È soltanto nella rivelazione neotestamentaria che apprendiamo da Gesù l'esistenza della persona del Padre in seno alle relazioni trinitarie. Gesù è figlio di Dio non perché è nato dopo o perché, come dicono i testimoni di Geova, egli è stato il primo ad essere creato, ma Cristo è figlio di Dio perché la sua relazione con il Padre e lo Spirito Santo è una relazione di figliolanza ab eterno. Questo aspetto è peculiare del cristianesimo. Ma è anche vero, e dobbiamo riconoscerlo, che nell'Antico Testamento vi fossero già affermazioni che, velatamente, attestavano una figliolanza in seno alla divinità. Ma solo alla luce delle parole di Cristo si possono comprendere. Vogliamo ora considerare due brani della Parola di Dio nei quali possiamo cogliere il grande mistero della figliolanza di Cristo in seno alla Trinità. Il primo brano lo troviamo nel Salmo 2. Ascoltiamo. «Dichiarerò il decreto dell'Eterno. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Chiedimi e io ti darò le nazioni come tua eredità e le estremità della terra per tua possessione. Tu le spezzerai con una verga di ferro, le frantumerai come un vaso d'argilla. Ora dunque, o re, siate savi, accettate la correzione, o giudici della terra. Servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Sottomettetevi al Figlio, perché non si adiri e non periate per via, perché la sua ira può accendersi in un momento. Beati tutti coloro che si rifugiano in lui». Il secondo brano lo troviamo nel libro dei Proverbi. «Chi è salito in cielo e ne è disceso? Chi ha raccolto il vento nelle sue mani? Chi ha racchiuso le acque nella sua veste? Chi ha stabilito tutti i confini della terra? Qual è il suo nome e il nome di suo figlio, se lo sai?» Ancora una volta riscontriamo che ciò che Gesù ha detto non fosse completamente nuovo. Tutto era già stato rivelato, anche se in forma nascosta. Escludere però la possibilità che l'Antico Testamento presenti la persona del Padre non significa che egli non fosse all'opera. Anzi, Gli stessi termini Elohim, di plurale appunto, o Adonai, che è un plurale che vuol dire signori, ci conducono a comprendere che esista una pluralità nella divinità. Ed è legittimo scorgervi in questa pluralità anche la persona del Padre e dello Spirito Santo. Quando noi leggiamo nel principio Elohim creò i cieli e la terra, significa che il Padre e lo Spirito Santo erano all'opera nel Figlio, giacché partecipi della stessa natura. L'Antico Testamento indica dunque la presenza di Dio Padre, ma non la rivela. Alcuni versetti che troviamo nel profeta Daniele, al capitolo 7, possono far pensare che l'Antico Testamento rivelasse la persona del Padre. Il Figlio dell'uomo è, senza ombra di dubbio, Cristo, perché Gesù in prima persona si attribuisse questo titolo circa 80 volte e lo fa in terza persona, proprio come si esprimeva Yahweh. In quell'occasione vediamo che il Figlio dell'uomo giunge fino all'antico di giorni, espressione questa nella quale alcuni colgono la persona del Padre, anche se Daniele capitolo 7 versetti 9 e 22 fanno chiaramente riferimento a Cristo. Se l'antico dei giorni che leggiamo nella parola di Dio è riferito alla persona del Padre, dobbiamo anche accettare che egli abbia i capelli come lana pura, come troviamo scritto appunto nel profeta Daniele al capitolo 7. Se questa espressione è ritenuta allegorica, anche i troni, le vesti, sono simbolici, rendendo il testo senza significato. Non rimane che concludere che l'antico dei giorni, appunto, sia Cristo. È dunque normale che sia i suoi genitori che i giudei non comprendessero Gesù quando parlava del Padre. Gesù non è venuto per rivelare il Dio dell'Antico Testamento, perché egli era proprio quello, incarnatosi, ma egli è venuto sulla terra perché, attraverso la sua divina persona, l'uomo conoscesse la Deità e avesse accesso al Padre, sia come conoscenza, sia come avvicinamento. Accettando radicalmente l'affermazione di Gesù, non si può che passare per estremisti. Se Gesù è l'unica via per accedere al Padre, se nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui, ciò significa che non vi sono alternative di altre divinità per accedere alla Deità. Mi chiedo, a questo punto, come il cattolicesimo romano possa avere altri mediatori, tra l'altro tutti esseri umani e peccatori, tra Dio e gli uomini. Come possono gli studiosi cattolici sostenere dottrine mariane? Una sola è la spiegazione: aver accettato incondizionatamente l'autorità del cattolicesimo romano, avendola anteposta a quella della scrittura. Cari ascoltatori, che Gesù avesse un padre o avesse una natura come quella del Padre getta luce sui sacrifici dell'Antico Testamento. Non essendo ancora rivelato il Padre, è evidente che il credente all'epoca offrisse i suoi sacrifici a Yahweh. Con la sua venuta, Gesù ha tolto il velo e il credente ha libero accesso al Padre, perché Yahweh, incarnato, poteva rivelarlo pieno e, avendo così aperto un contatto diretto con Lui. Ascoltiamo, a proposito, la lettura nella lettera agli Ebrei. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente, che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Si insegna tradizionalmente che il credente, dopo la venuta di Gesù, possa offrire sacrifici al Padre, ma se, come affermato precedentemente, i sacrifici dell'Antico Testamento erano offerti a Yahweh, cioè a Cristo, forse è da rivedere la teologia, che pretende di scorgere nella persona di Dio un Padre, la cui ira deve essere placata e la cui giustizia va soddisfatta. Come il tabernacolo e tutti gli arredi erano figura di Cristo, così anche i sacrifici avevano lo scopo di prefigurare la morte di Gesù Cristo e non l'azione attiva del Padre che colpisse il Figlio. I sacrifici erano dunque un simbolo di sostituzione anziché l'annuncio della pretesa di un Padre che vuole un sacrificio cruento per soddisfare la sua giustizia. Il rituale ebraico non deve essere interpretato nell'ottica di un Dio sanguinario che ha bisogno del sangue per la rimissione dei peccati, ma in quella di Yahweh che deve dare la sua vita per perdonare il peccatore. Il salmista afferma: «Tu farai l'espiazione delle nostre trasgressioni». Yahweh, dunque, ab eterno, decise di creare l'uomo e di salvarlo mediante il suo sacrificio. Per questo tutto il rituale ebraico aveva lo scopo di annunciare la buona notizia, cioè l'Evangelo della sua opera di redenzione. A noi non resta che adorarlo e servirlo. Che l'Eterno, cari ascoltatori, rivolga il suo favorevole sguardo su di voi. Amen. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, fedele il nostro Dio al quale siamo stati chiamati alla comunione del suo Figlio Gesù, nostro Signore. Proprio per questa beata speranza, oggi continuiamo le nostre riflessioni in merito al grande dono che Gesù Cristo ha elargito a tutti noi con il suo sacrificio, dandoci la possibilità di avere accesso alla Deità. Abbiamo detto nella trasmissione precedente che Gesù non è venuto per rivelare il Dio dell'Antico Testamento, perché Egli era proprio quello, incarnatosi. Ma Egli è venuto sulla terra non solo per salvare l'uomo dalla perdizione, ma perché, attraverso la sua divina persona, l'uomo conoscesse la Deità e avesse accesso al Padre, sia come conoscenza, sia come avvicinamento. Con questa visione, i sacrifici dell'Antico Testamento erano simbolo di sostituzione, anziché l'annuncio della pretesa di un Padre che vuole un sacrificio cruento per soddisfare la sua giustizia. Il rituale ebraico non deve essere interpretato nell'ottica di un Dio sanguinario, che ha bisogno del sangue per la rimissione dei peccati, ma in quella di Yahweh, che deve dare la sua vita per perdonare il peccatore. Questa prospettiva ribalta completamente l'idea pagana di una divinità che deve essere placata con un'offerta cruenta. Dio, che nella nostra mente è associato erroneamente quasi sempre al Padre, non aveva bisogno di un sacrificio, per quanto indispensabile e inevitabile fosse il sacrificio cruento, lo spargimento di sangue. Per questo, nel suo amore, Gesù, Dio, in accordo con la Deità, si è offerto spontaneamente a morire per la sua creatura. Infatti, egli disse al Padre: «Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». Ciò che successe alla croce forse ci sarà impossibile comprenderlo pienamente. Nel suo proponimento eterno, la Deità decise di creare e di salvare l'uomo. Il Padre ha offerto suo Figlio, Cristo, che Yahweh si è donato, e lo Spirito Santo lo ha sostenuto. Proprio per questa intesa nella Deità, Gesù Cristo, quale Dio creatore uomo, ha accettato su di sé il peccato, costituente il muro di separazione dalla sua creatura. Gesù non venne maledetto dal Padre, come alcuni pensano, perché portava i nostri peccati sulla croce, ma dalla legge. Non era quindi la collera della maestà che colpiva suo figlio, ma fu il figlio a scegliere liberamente di considerarsi responsabile della colpa dell'umanità e di sostituirsi a questa, accettando di scontare personalmente le conseguenze che la Torah esigeva. La straziante esclamazione di Gesù «Dio mio, perché mi hai abbandonato?» non denunciava che il padre avesse abbandonato il figlio, giacché in seguito quest'ultimo disse «Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito». Il grido disperato di Gesù, rivolto alla divinità, risultante «Eli, Eli» in ebraico e secondo Matteo è Eloi, Eloi in aramaico, secondo Marco, è l'equivalente dell'Elohim dell'Antico Testamento. Gesù si rivolse quindi alla pluralità della Deità e non solo alla persona del Padre. Qualunque cosa fosse accaduta sulla croce, comunque una cosa è certa. Nessuno ha tolto la vita a Dio Gesù. Il Padre non era adirato con il Figlio. Gesù ha rimesso il suo spirito nelle mani del Padre, che non lo aveva abbandonato. Un abbandono comunque è avvenuto, e questo perché Gesù ha portato i nostri peccati, perché gli è stato fatto peccato e maledizione per noi, causa nostra e al nostro posto. Il cristiano ha nel suo cuore una forte testimonianza che deriva dalla Scrittura. Gesù è morto per riconciliarlo con la Deità. La riconciliazione non è stata solo verso la persona del Padre, ma con le tre persone della Deità. Questo aspetto lo approfondiremo nell'ultimo studio. Ho fiducia, cari ascoltatori, che questo lungo cammino non abbia stancato nessuno. Uno studio del genere ha comportato un impegno non indifferente, perché si è trattato non di cercare di capire alcune verità su Dio, ma di cercare di comprendere la natura stessa del Dio Trino, cioè di comprendere le tre persone che sussistono nell'unico Dio rivelato ad Israele e ai cristiani. In questa ricerca sono emerse alcune verità fondamentali, senza le quali tutto il nostro sapere su Gesù Cristo è compromesso. Infatti, la nascita di nuove religioni basate sulla Bibbia è dovuta ad un'errata comprensione della persona di Gesù. Considerato che l'Antico Testamento presenta la persona del Cristo prima della sua incarnazione, le religioni che si rifanno alla Scrittura devono enunciare ogni dottrina partendo da questo presupposto. Abbiamo dimostrato che Gesù afferma, in modo inequivocabile, di essere il Dio dell'Antico Testamento. Questo per alcuni è sconvolgente, anche se non si tratta di una novità. Fino al IV secolo, ciò era considerato una verità ovvia. In seguito è stata dimenticata, anche se molti dipinti del XIV, XV e XVI secolo mostrano la persona di Cristo che crea Adamo e che detta i comandamenti a Mosè. Ma forse la novità più sorprendente del Nuovo Testamento è che Yahweh, il Dio dell'Antico Testamento, avesse un padre, anche se alla luce della nostra cultura cristiana ciò non ci stupisse più di tanto, poiché fino dalla culla ci viene insegnato. Quello che stupisce e ci apre il cuore è che l'incarnazione, la morte e la risurrezione di Gesù non siano servite solo alla salvezza dell'uomo dalla perdizione, ma che la sua opera di redenzione e di propiziazione ci abbia dato la possibilità di avere accesso al Padre. Se consideriamo che nell'Antico Testamento il credente che adorasse si avvicinava a Yahweh e serviva Yahweh, dobbiamo dire che, con la sua opera di riconciliazione, Gesù sia la porta per avvicinarci al Padre di Lui. In effetti, l'Apostolo Paolo si esprime con queste parole. Ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Paolo mette in evidenza che l'accesso al Padre sia mediante Gesù Cristo. Ciò significa che, prima dell'incarnazione di Cristo, esso non era possibile. Ciò che sfugge ai cristiani è che, rompendosi la cortina del Tempio alla morte di Gesù, fu aperta la porta che dà accesso non tanto a Dio, a Yahweh, quanto alla persona di Abba, la prima persona della Trinità, e a tutta la Deità. Oggi noi possiamo dunque parlare, pregare, chiedere e presentarci direttamente alla Maestà tramite Gesù Cristo. Ecco che cosa ha scritto l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Il cristiano ha avuto la grazia di accedere alla presenza della Deità in pace, cosa non possibile prima della venuta di Cristo. Egli ha dunque ora comunione con l'Elohim, con l'Iddì, con tutta la pluralità della divinità. La venuta di Gesù Cristo sulla terra ha avuto un duplice scopo, quello di dare all'uomo l'accesso al Padre e quello di indicargli l'unica via per avere accesso alla Maestà. Il dono di avere la possibilità di entrare in comunione direttamente con la Deità non deve essere sottovalutato, perché solo il cristianesimo insegna tale verità. Un vescovo indiano testimoniò di essere stato una persona molto religiosa prima di convertirsi al cristianesimo. Una sola parola lo aveva fondamentalmente spinto verso la fede in Gesù Cristo: accesso. Nella sua espressione religiosa non aveva mai trovato accesso ai suoi dèi in tutti quei templi, benché fossero miriadi. Aveva infine trovato accesso a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Il concetto chiave del Nuovo Testamento è che abbiamo accesso al Padre. Consideriamo ora cosa comporti avere accesso alla Maestà. Nell'Antico Testamento Yahweh aveva ordinato l'osservanza di prescrizioni ferree per avvicinarsi a Lui. Senza certi presupposti, l'uomo non era accettato. Il credente doveva ricorrere ad un intermediario stabilito da Yahweh, cioè il sacerdote. Il sacerdote, a sua volta, doveva lavarsi e vestirsi in un certo modo, doveva osservare vari rituali ogni giorno e, una volta all'anno, poteva entrare nel luogo santissimo. Non solo. Se il sacerdote non eseguiva i rituali secondo le prescrizioni della legge, poteva anche morire. Pensiamo ai figli di Aronne che offrirono un fuoco non secondo i parametri di Yahweh e morirono sull'istante. Ricordiamo Uzza, che stese la mano per salvare in qualche modo l'arca, e anche lui morì. Gli scrittori del Nuovo Testamento hanno messo in evidenza che tutti gli apparati sacerdotali rituali fossero ombra di futuri beni, cioè esprimessero verità che sono state realizzate e spiegate con la venuta di Gesù Cristo e dello Spirito Santo. Il credente si è soffermato quasi esclusivamente sull'opera della salvezza di Gesù, trascurando tutti i benefici ricevuti dall'opera di redenzione. Per comprendere il valore del sacrificio di Gesù Cristo, dobbiamo prendere in prestito delle immagini che ci vengono dalle parole di Gesù stesso. Nella parabola del re, che prepara le nozze di suo figlio, troviamo un uomo che era entrato nella sala nella quale si celebravano le nozze, senza indossare l'abito adatto, quello appunto delle nozze. Il re prima gli chiede di giustificare la ragione del suo vestito inadatto, poi lo fa legare e gettare fuori nelle tenebre. Questa parabola ci insegna almeno due verità. Davanti alla maestà non ci si può presentare con l'abbigliamento comune di tutti i giorni e l'inosservanza di certe regole suscita l'esclusione dalla presenza della maestà. Questi due principi vengono esposti in seguito dagli apostoli nelle loro lettere. L'uomo è una creatura che è stata invitata alle nozze di Gesù Cristo. La parabola non esclude nessuno, perché tutti sono chiamati. Avendo l'uomo una natura corrotta, rappresentata da un abito che non è adatto alle nozze, non può presentarsi davanti alla maestà. E per questo Dio ha provveduto a rigenerare e a rivestire della giustizia di Gesù Cristo chi crede in Lui. Quest'atto di misericordia è talmente grande quanto l'atto della salvezza. Cosa sarebbe servito essere salvati se non avessimo potuto avere comunione con il nostro Salvatore e la Deità? Per questo, cari ascoltatori, la mia preghiera è che ognuno di voi possiate desiderare, sopra ad ogni cosa, di avere comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Non vi è nulla di più grande, di eterno e di meraviglioso che avere una relazione con la Deità. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima ed ultima trasmissione in merito a questo tema. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti all'ultima trasmissione in merito alla persona di Gesù Cristo, quale Yahweh, la divinità dell'Antico Testamento. Per molti questo aspetto della persona di Cristo può sembrare radicale e assurda, ma chi ha seguito fin qui avrà notato come in tutta la Scrittura siano evidenti i riferimenti a Gesù Cristo nell'Antico Testamento. Cristo Gesù è il Creatore, il Salvatore, il Giudice, la Luce, l'Io Sono, il Pastore, è il Primo e l'Ultimo, è il Redentore, lo Sposo, la Rocca, colui che perdona i peccati, è stato adorato dagli angeli, cercato nella preghiera, è il Creatore degli angeli, è stato confessato come Signore ed è pure l'Amen. Questi, cari ascoltatori, sono aspetti che possono essere attribuiti solo ad una divinità e alla divinità degli ebrei e dei cristiani, che nell'Antico Testamento ha il nome proprio di un tetagramma, nome che troviamo più di 6.000 volte e che noi abbiamo letto Yahweh. Come abbiamo detto nella trasmissione precedente, Gesù non è venuto per rivelare il Dio dell'Antico Testamento, perché Egli era proprio quello incarnatosi, ma Egli è venuto sulla terra non solo per salvare l'uomo dalla perdizione, ma perché, attraverso la sua divina persona, l'uomo conoscesse la Deità e avesse accesso al Padre, sia come conoscenza e sia come avvicinamento. Che il Dio di Gesù Cristo riveli a tutti, credenti o non, questa immensa grazia che è riservata a tutti coloro che hanno posto fede in Cristo, quale divinità dell'Antico Testamento. Oggi terminiamo le nostre riflessioni in merito a Gesù, quale rivelatore del Dio Trino, e quale via per accedere ad esso. Abbiamo considerato che per accedere alla divinità occorra non solo una nuova nascita, ma anche una natura spirituale appropriata, e per questo Dio ha provveduto di dare all'uomo una natura divina. L'Apostolo Pietro lo dice espressamente nelle sue lettere scritte ai giudei cristiani dispersi. Ascoltiamo. Perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio vivente e che dura in eterno. E ancora? Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Dunque, il cristiano, benché sia una creatura tratta dalla terra, come tutti gli esseri umani, è stato fatto partecipe della stessa natura divina del Dio Trino, di Dio Padre, Yahweh e dello Spirito Santo, che in ebraico, ricordiamo, è Ruah, al femminile. Il credente in Cristo è stato reso degno di accedere alla presenza della Deità. Se Gesù Cristo, con la sua morte e risurrezione, ci avesse salvati dalla sola perdizione, noi saremmo più disperati di prima. Saremmo come quello che è stato salvato da un naufragio, ma non sa dove posare il piede sulla terraferma. Oppure, se vogliamo prendere un esempio biblico, come Absalom, il figlio del re Davide, che fu perdonato da suo padre quando uccise suo fratello, ma non poteva andare alla sua presenza. E 2 anni dopo, Absalom disse a Joab: «Sarebbe meglio per me se fossi rimasto dove ero prima». Proprio perché l'opera di salvezza di Gesù Cristo è completa, chi crede in Lui non è solo stato reso figlio di Dio, ma è anche stato reso degno di accedere alla presenza della Maestà. Questo aspetto spirituale comporta, da parte del credente, anche nuovi atteggiamenti nell'esteriore. Il sacerdote doveva presentarsi a Dio lavato e vestito in un certo modo, con abiti adatti per andare alla presenza delle deità. Dal momento che i credenti hanno compreso che tutto questo era figura di realtà celesti, sono finiti con il passare dalla parte opposta, non dando il giusto valore alla esteriorità. Così, quando la Chiesa si riunisce per rendere un culto a Dio pubblicamente, vi sono credenti che non danno valore al decoro e all'ordine. Mantenere l'ordine ed essere vestiti con decoro alla presenza di Dio può essere ritenuto una forma, una pesante usanza tramandata, una esteriorità inutile, perché tanto Dio guarda il cuore. Ma che Dio non guardi all'esteriore è una conclusione del tutto arbitraria. Paolo ordina alla Chiesa di Corinto che ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine, mentre Timoteo ordina che le donne, vestendosi decorosamente, si adornino con pudore e riservatezza. Per essere accettati da Dio, quando si va alla sua presenza, occorre guardare non solo alle motivazioni, ma anche alla forma, come è precisamente specificato nella parabola delle nozze. All'uomo, che non aveva il vestito adatto, fu impedito di stare al pranzo e fu gettato fuori. La parabola delle nozze esprime un'altra verità. Il credente che non si presenterà davanti al tribunale di Cristo vestito di buone opere sarà svergognato. Ecco cosa leggiamo nella prima lettera a Giovanni al capitolo 2. Ora dunque, figlioletti, dimorate in Lui affinché, quando Egli apparirà, noi possiamo avere fiducia e alla sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. Dunque, chi si gloria della certezza della salvezza, chi è un figlio di Dio, deve preoccuparsi anche di non essere confuso e svergognato nel giorno di Gesù Cristo, perché non tutti i credenti regneranno con Gesù. Tutti i figli di Dio parteciperanno al regno di Cristo, ma solo quelli che avranno perseverato potranno regnare con Cristo. Questa verità è presente in tutta la Scrittura. Dopo la morte e la risurrezione di Gesù, il credente è stato dunque reso degno di entrare alla presenza della Deità, ricevendo la natura divina per mezzo dello Spirito Santo. Come Gesù è stato fatto partecipe della natura umana, così il credente è stato reso partecipe della natura divina. Questo fatto ha indotto Paolo a formulare tutta quella teologia di Cristo in voi. Nel credente abita dunque la natura del Consolatore, di Gesù Cristo, di Abba, il Padre, poiché tutti e tre hanno la stessa natura. A proposito, ascoltiamo ora tre letture della Parola di Dio che esprimono questa verità. La prima la troviamo nella lettera ai Colossesi. Ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Ora ascoltiamo la lettura nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 3. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Infine, leggiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14. Gesù disse, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Poteva, cari ascoltatori, un unico Dio trino onorare la sua creatura tratta dalla terra in modo migliore che nel farlo simile a lui? È forse un modo di dire che Dio è andato ad abitare nell'uomo o è una realtà di cui il cristiano deve vantarsi? Il fatto che Dio abita nell'uomo è talmente vero che l'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, fa un'affermazione che a mio avviso è unica nel suo genere e che non è riscontrabile in nessuna religione. Ascoltiamo. Dio è amore. Quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. La creatura è innalzata al livello della Deità e ciò suscita irresistibilmente l'adorazione da chi è stato comprato a caro prezzo da Gesù Cristo. Cari ascoltatori, le riflessioni che abbiamo fatto oggi, e non solo, non sono parole per riempire uno spazio di una trasmissione, ma una realtà per chi è entrato nel regno di Dio. Chi ha letto la parola di Dio per cercare la vera divinità, a chi è stato rivelato che Cristo Gesù è la divinità degli ebrei e dei cristiani, a chi ha accettato nella propria vita Cristo Gesù, quale Yahweh, l'unico Salvatore e Signore, è stata data la grazia di essere partecipe della natura divina e di accedere al vero Dio in preghiera. E non solo. A chi ama Dio tramite Gesù ha delle promesse immense. Ascoltiamo ciò che Paolo scrisse nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 2. Or noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questa età, né dei dominatori di questa età che sono ridotti al nulla, ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero, che Dio ha preordinato prima delle età per la nostra gloria, che nessuno dei dominatori di questa età ha conosciuta. Perché, se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma, come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Sì, Dio ha preparato delle rivelazioni per chi lo ama, che non appartengono ai ragionamenti umani. E tra queste rivelazioni, cari ascoltatori, senza che vi sia un minimo di orgoglio, vi è anche quella di Gesù Cristo quale divinità dell'Antico Testamento. Da notare ancora che le rivelazioni di Dio non sono per chi è intelligente, ma sono riservate per chi lo ama. E l'amore per Dio è osservare i Suoi comandamenti. Perciò io invito tutti i figli di Dio a riposare in questa promessa per indagare ogni giorno i pensieri di Dio. Perché è scritto, è gloria di Dio nascondere una cosa, ma è gloria dei re investigarla. Mi è difficile riassumere queste 36 trasmissioni in merito a Gesù Cristo quale Yahweh con poche parole. Ma una sola verità vorrei che rimanesse nel vostro cuore, verità che ha detto Gesù. Voi siete di quaggiù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, e io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. In un mondo intriso di pluralismo religioso, dove ognuno ritiene di essere nel giusto, occorre passare non solo dal teocentrismo al cristocentrismo, ma proclamare con forza e per lo Spirito Santo anche una cristologia yahveista. Presentare il mondo Gesù come Yahweh, l'Io Sono, l'unico Signore, diventa il messaggio indispensabile e insostituibile per una nuova evangelizzazione del terzo millennio, affinché, come leggiamo nella lettera ai Filippesi, nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti e terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, cioè Yahweh, alla gloria di Dio Padre. Vi saluto con affetto e vi attendo alla prossima trasmissione, sempre pronti a ricevere le rivelazioni di Dio. L'Eterno sia sempre con voi.